Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Con circa 15.000 sportelli, Poste Italiane è una delle realtà più diffuse sul territorio nazionale, ma purtroppo storicamente è anche una delle realtà più bistrattate. Eppure da diversi anni, almeno una decina, questo che è sempre stato un grande carrozzone pubblico ha avuto tutto sommato la capacità di cambiare pelle e di modernizzarsi e di sfruttare questa sua forte presenza sul territorio per offrire tutto un ventaglio di nuovi servizi. A partire, lo ricorderete, da quelli bancari. Dietro a questa trasformazione, che è ancora in corso, c'è lo sviluppo, durato circa 10 anni, di una complessa infrastruttura informatica imperniata su un certo numero di control room, stanze dei bottoni, un po' in stile NASA, specializzate nel monitorare in tempo reale i servizi che le poste offrono. Chiara Albicocco ne ha parlato con Giuseppe Giovanni Pavone, responsabile dello sviluppo business grandi imprese e pubblica amministrazione di Poste Italiane. Sentiamo. Poste Italiane gestisce più di 200 diversi servizi e in questi anni, diciamo, quelli che sono i tradizionali asset di Poste, quindi gli uffici postali piuttosto che le piattaforme di logistica, abbiamo aggiunto un'importante, diciamo, innovazione. Cioè, tutti questi asset sono stati collegati attraverso una imponente piattaforma tecnologica che oggi rappresenta effettivamente una delle infrastrutture più grandi e innovative del paese. Per poter garantire il servizio abbiamo dovuto lavorare nella costruzione di un imponente sistema di controllo che viene rappresentato dalle nostre control room. Ecco, a questo proposito le chiederei proprio di descrivercela, cioè sono delle stanze molto grandi con tantissimi computer che sono in grado di vedere, tra virgolette, di capire che cosa succede nel singolo ufficio postale che abbiamo sotto casa nel singolo paese. È esattamente così, la control room è un luogo fisico dove lavorano mediamente tra le 40 e le 50 persone organizzate in turni, secondo dei processi operativi definiti, e siamo in grado di vedere il singolo prodotto che viene venduto nell'ufficio postale, ma anche il singolo oggetto che viene recapitato da un postino piuttosto che consegnato attraverso la nostra rete di logistica. Nel corso del tempo, diciamo, più o meno questa attività di sviluppo si è articolata su un decennio. Si è partiti dalla control room tradizionale, diciamo, quella che monitorava i servizi tecnologici, e si sono poi realizzate delle control room tematiche. Quindi la control room, diciamo, tra l'altro ha dotazioni di strumenti che consentono di vedere in tempo reale le informazioni, quindi grandi monitor, segnalazioni visive. Si sono specializzate, dicevo, su settori particolari, per esempio sulla sicurezza informatica, sulla logistica. Sulla sicurezza informatica, che è un tema centrale rispetto alla sia ai servizi di Poste sia alla proposta di servizi che stiamo offrendo alla pubblica amministrazione e alle grandi imprese, rappresenta un asset fondamentale. Cioè, non è possibile erogare servizi su piattaforme così complesse che utilizzano il bit come elemento, diciamo, di trasferimento dal lato di business e dal lato di oggetti, senza avere un controllo puntuale della sicurezza in tutte le sue forme, quindi dall'identità fino praticamente alla continuità del servizio. Eccoci al punto: all'interno di un ufficio postale, con questo sistema che voi avete messo a punto in anni chiaramente di sviluppo, che cosa sarà possibile fare e che cosa in alcuni casi avete già cominciato a sperimentare? Allora, alcuni esempi. Questa grande infrastruttura di controllo ci consente, ad esempio, di aprire i nostri uffici postali a dei servizi tipici della pubblica amministrazione. Quindi, ad esempio, nel mondo della sanità ormai ci sono decine di ASL sul territorio nazionale che gestiscono attraverso i nostri uffici, per esempio, il pagamento di ticket sanitari. Quindi dare una control room, e il modello delle control room prevede più di 10 control room nazionali, e poi queste control room sono replicate a livello regionale, noi siamo in grado di vedere i ticket che vengono pagati in tempo reale, piuttosto che, e qui in questo caso, diciamo, parliamo delle realtà comunali, grandi realtà come può essere per esempio il Comune di Roma, noi riusciamo, gestiamo attraverso la rete degli uffici postali l'emissione di certificati anagrafici, così come il meccanismo di controllo è stato utilissimo quando la pubblica amministrazione ci ha affidato progetti di rilevanza nazionale. L'ultimo in ordine di tempo è stata la gestione del censimento Istat. Prima abbiamo avuto l'emersione del lavoro irregolare, abbiamo adesso la gestione dei permessi di soggiorno, quindi attraverso il sistema di controllo noi connettiamo più reti. Nell'emersione dei permessi di soggiorno abbiamo la rete delle questure, la rete dei patronati, i cittadini, le nostre reti degli uffici postali. Ecco, grandi reti di questo tipo sono gestibili solo attraverso una struttura che li controlla in ogni momento della giornata e attraverso dei sistemi che poi sono in grado di sintetizzare le informazioni. Sempre per fare un esempio, una delle control room è dedicata alla videosorveglianza negli uffici postali. Ecco, questo è un aspetto molto importante, nel senso che spesso sentiamo di problematiche dal punto di vista della sicurezza. In questo caso, con una sorveglianza, come dire, in tempo reale, è possibile in qualche modo soccorrere in tempo reale. È proprio così. Noi l'esperienza che abbiamo fatto sui nostri uffici ci consente oggi di proporre questo modello di videosorveglianza anche alle realtà, diciamo, cittadine. Nella nostra esperienza, avere un sistema di controllo con persone specializzate ci consente, per esempio, di lavorare in collaborazione con le forze dell'ordine per filtrare tutte le segnalazioni di intervento. Dai nostri dati abbiamo oggi che riusciamo ad avere un filtro di più del 95% delle segnalazioni. Significa che poi chiamiamo le forze dell'ordine solo quando servono e quando effettivamente l'evento è un evento, diciamo, criminoso. Dal punto di vista economico, è un servizio che a un'amministrazione costa molto ma allo stesso tempo si ripaga, o in qualche modo, avendo già tutto il know-how a disposizione, il servizio è in qualche modo non così importante dal punto di vista del finanziamento per un ente pubblico? No, certamente l'ente pubblico, diciamo, si avvale delle economie di scala di un sistema che comunque funziona per una grande realtà fatta di 150.000 persone che ogni giorno lavorano per erogare i servizi di Poste. E naturalmente il cittadino paga semplicemente il servizio e non tutta la conoscenza e tutti gli investimenti che sarebbero necessari per realizzare per la singola amministrazione un'analoga realtà operativa. Ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.